Dopo aver fatto la sua toiletta da ecclesiastico con la dovuta cura al mattino, era preparato solo a quell'amenità della vita d'ate alla cravatta rigida ben aggiustata di quell'epoca e a una mente gravata da materia inedita. E per triste contrasto, le idee e le risoluzioni di Dorotea sembravano ghiaccio che si scioglie galleggiando e si perde nel caldo profluvio di cui esse erano state solo un'altra forma. Era umiliata a trovarsi semplice vittima del sentimento, come se non potesse conoscere nulla se non per mezzo di quel tramite. Tutta la sua forza si disperdeva in crisi di agitazione, di lotta, di abbattimento e poi ancora in visione di una rinuncia più completa, trasformando ogni dura condizione in un dovere. Povera Dorotea. Era veramente molesta, a se stessa soprattutto, ma quella mattina per la prima volta era stata molesta a Mr. Kesabo. Aveva cominciato mentre stavano prendendo il caffè, decisa a liberarsi di quello che dentro chiamava il suo egoismo, e aveva rivolto un viso pieno di gioiosa attenzione al marito, quando questi aveva detto: «Mia cara Dorotea, adesso dobbiamo pensare a tutto ciò che è rimasto incompiuto in preparazione della nostra partenza. Sarei tornato molto volentieri a casa prima in modo da poter essere a Lowick per il Natale, ma le mie ricerche qui sono state protratte oltre il periodo previsto. Spero comunque che il vostro tempo qui non l'abbiate trascorso in modo spiacevole. Fra le cose da vedere in Europa, Roma è sempre stata ritenuta una delle più considerevoli e sotto alcuni aspetti edificanti. Ricordo bene che lo considerai un grande avvenimento della mia vita quando la visitai per la prima volta, dopo la caduta di Napoleone, un avvenimento che aprì il continente ai viaggiatori. In effetti, penso che sia una delle tante città per la quale è stata usata un'iperbole estrema. Vedi Roma e poi muori. Ma nel nostro caso proporrei un emendamento e direi: vedi Roma da sposa e poi vivi da moglie felice. Mister Kesabo pronunciò il suo discorsetto con l'intenzione più coscienziosa, sbattendo un po' le palpebre e dondolando il capo su e giù e concludendo con un sorriso. Non aveva provato nel matrimonio una condizione di estasi, ma non aveva idea di essere altro che un marito irreprensibile, che avrebbe reso felice quanto lo meritava una giovane incantevole. Spero che siate completamente soddisfatto del vostro soggiorno, voglio dire dei risultati finora raggiunti per quel che riguarda i vostri studi, disse Dorotea, cercando di tenere ben presente ciò che stava a cuore maggiormente al marito. Sì, disse Mr. Kesabo con quel particolare tono di voce che fa della parola una mezza negazione. Sono stato portato più in là di quanto avessi previsto e mi si sono presentati vari soggetti di cui prendere nota, che sebbene non sia direttamente interessato a essi, non ho potuto trascurare. Il lavoro, nonostante l'assistenza del mio amanuense, è stato alquanto arduo, ma la vostra compagnia mi ha fortunatamente impedito quella continua applicazione del pensiero oltre le ore di studio che è stata la trappola della mia vita solitaria. Sono molto lieta che la mia presenza abbia significato una qualche differenza per voi. Disse Dorotea, che conservava un vivo ricordo delle serate durante le quali le era parso che la mente di Mr. Kesabo fosse rimasta troppo immersa durante la giornata per riuscire a tornare alla superficie. Temo che ci fosse un po' di stizza nella sua risposta. Spero che una volta tornati a Lowick vi sarò più utile, potrò addentrarmi un po' di più nei vostri interessi. Senza dubbio, mia cara, disse Mr. Kesabo facendo un leggero inchino. Le note che ho redatto qui avranno bisogno di essere vagliate e se vorrete essere così gentile, potrete stralciarle sotto la mia supervisione. Tutte le vostre note, disse Dorotea, alla quale su questo argomento il cuore era già bruciato dentro, così che ora non poté trattenersi dal parlare fuori dai denti. Tutte quelle sfilze di volumi. Adesso non farete ciò di cui eravate solito parlare? Non volete decidervi a scegliere quale parte di esse usare e mettervi a scrivere il libro che renderà le vostre vaste conoscenze utili al mondo? Io scriverò sotto dettatura, oppure copierò e ricaverò quello che mi direte. Non posso fare altro di più utile. Dorotea, cosa assai inesplicabile e oscuramente femminile, terminò con un lieve singhiozzo e gli occhi pieni di lacrime. L'eccessiva passione dimostrata sarebbe bastata da sola a turbare fortemente Mr. Kesabo. Ma c'erano altri motivi per cui le parole di Dorotea erano fra le più taglienti ed irritanti che potesse essere stata spinta ad usare. Essa era cieca alle pene interiori di lui, come lui alle sue. Non aveva ancora imparato quei segreti conflitti del marito che fanno appello alla nostra compassione. Non aveva ancora porto un orecchio paziente ai battiti del cuore di lui, ma avvertiva soltanto che il proprio batteva con violenza. All'orecchio di Mr. Casabo, la voce di Dorotea ripeteva in tono sonoro ed enfatico quei suggerimenti soffocati della coscienza che era possibile spiegare come mera illusione, la fantasia di una sensibilità esagerata. Sempre, quando tali suggerimenti vengono ripetuti inequivocabilmente dall'esterno, sono respinti come crudeli e ingiusti. Ci fa adirare persino la piena accettazione delle nostre umilianti confessioni. Quanto più ci irrita allora udire in dure sillabe distinte dalle parole di un osservatore vicino quei mormori confusi che cerchiamo di chiamare morbosi e contro cui lottiamo come se fossero il sopraggiungere dello stordimento. E questo crudele osservatore esterno era lì, nella persona della moglie, anzi di una giovane moglie, la quale invece di osservare i numerosi sgorbi della sua penna e l'abbondanza della carta, con la suggestione priva di senso critico di un canarino dalla mente raffinata, sembrava presentarsi come una spia che osservava tutto con una malvagia capacità deduttiva. Qui, verso questo particolare punto della bussola, Mr. Casebo aveva una sensibilità pari a quella di Dorotea e un'uguale prontezza a immaginare cose inesistenti. Un tempo aveva osservato con approvazione la sua capacità di venerare l'oggetto giusto, adesso prevedeva con subito terrore che a questa capacità si potesse sostituire l'arroganza, a questa venerazione la più esasperante di tutte le critiche, quella che vede vagamente moltissime mete luminose e non ha la minima idea di quanto costi raggiungerle. Per la prima volta, da quando Dorotea lo conosceva, il volto di Mr. Casebo avanzò rapidamente in preda all'ira. «Mia cara!» egli disse con irritazione, frenata dal decoro. «Potete star certa che conosco io i tempi e le stagioni adatte ai diversi stadi di un'opera che non si può misurare in base alle facili congetture di osservatori ignoranti. Mi sarebbe stato facile raggiungere un effetto passeggero attirato dal miraggio di una stima infondata, ma è sempre la croce dell'esploratore scrupoloso essere salutato dal disprezzo impaziente di chiacchieroni che tentano solo le imprese minori, non essendo in realtà equipaggiati per altre. E sarebbe bene che tutti questi potessero essere ammoniti a distinguere fra i giudizi la cui vera materia sta completamente al di là della loro portata e quelli i cui elementi possono essere compresi da un'analisi ottusa e superficiale. Questo discorso fu pronunciato con un'energia e una prontezza del tutto inconsuete per Mr. Casebo. Infatti non si trattava per intero di un'improvvisazione, ma aveva assunto forma di un colloquio interiore e si era riversato fuori come i grani rotondi da un frutto quando il calore improvviso lo spacca. Dorotea non era solo sua moglie, era una personificazione di quel mondo superficiale che circonda l'autore mal giudicato e scoraggiato. Dorotea fu indignata a sua volta. Non aveva represso tutto in lei, tranne il desiderio di conoscere gli interessi principali del marito. Il mio era un giudizio assai superficiale, quale sono in grado di formulare, le rispose con un pronto risentimento che non aveva bisogno di alcuna prova generale. Siete stato voi a mostrarmi le sfilze di taccuini. Voi me ne avete sempre parlato, voi avete detto spesso che dovevamo essere assimilati. Ma non vi ho mai sentito parlare di scrivere quello che deve essere pubblicato. Questi sono semplicemente i fatti e il mio giudizio non è andato più in là. Vi avevo solo pregato di permettermi di essere di qualche utilità. Dorotea si alzò per abbandonare il tavolo e Mr. Casebo, invece di risponderle, raccolse una lettera posata accanto a lui come per rileggerla. Entrambi erano indignati della situazione comune in cui si trovavano, che uno avesse rivelato ira nei confronti dell'altra. Se si fossero trovati a casa, sistemati a Lowick, in una vita normale fra i loro vicini, lo scontro sarebbe stato meno imbarazzante. Ma durante un viaggio di nozze, il cui scopo specifico è di isolare due persone per il motivo che queste sono il mondo intero l'uno per l'altra, la sensazione di disaccordo è perlomeno sconcertante e frustrante. Aver cambiato di longitudine in modo così sensibile ed essersi posti in una solitudine morale allo scopo di lasciarsi andare a piccole esplosioni d'ira, trovare la conversazione difficile, porgersi un bicchiere d'acqua senza guardarsi, può ben difficilmente essere considerato un risultato soddisfacente anche alle sensibilità più incallite. Alla mente inesperta di Dorotea parve una catastrofe, un mutamento di tutte le prospettive e per Mr. Casebo fu un nuovo dolore, non essendo mai stato in viaggio di nozze prima d'ora e non essendosi mai trovato in quella stretta unione che era una soggezione maggiore di quella che era riuscito a immaginare, dato che questa incantevole giovane sposa non solo lo obbligava a farla oggetto di grande considerazione, cosa che egli aveva fatto assiduamente, ma si rivelava capace di provocare in lui una crudele agitazione proprio riguardo all'argomento per cui aveva maggior bisogno di calma. Invece di essersi procurato una tenera protezione contro il pubblico freddo, umbratile, avaro di applausi della propria vita, l'aveva solo dotato di una presenza più concreta? Nessuno dei due trovò possibile parlare di nuovo al momento. Annullare una disposizione precedente, rifiutare di uscire, avrebbe mostrato il persistere di una animosità da cui la coscienza di Dorotea rifuggiva, visto che già cominciava a sentirsi per parte sua in colpa. Per quanto giusta potesse essere la sua indignazione, il suo ideale non era reclamare giustizia, ma dare tenerezza, cosicché quando la carrozza giunse al portone, essa si recò con Mr. Casaubon al Vaticano, percorsero assieme il viale di iscrizioni in pietra e quando si congedò da lui all'ingresso della biblioteca proseguì attraverso il museo, del tutto indifferente a ciò che la circondava. Non aveva la forza di girarsi e dire che voleva andare da qualsiasi altra parte. Fu quando Mr. Casaubon la stava lasciando che Neumann l'aveva vista la prima volta. Ed era entrato nella lunga galleria di sculture contemporaneamente a lei. Ma qui Neumann doveva attendere Ladislav, col quale voleva scommettere una bottiglia di champagne riguardo a un'enigmatica figura dall'aspetto medievale che si trovava lì. Dopo aver esaminato la figura e aver proseguito terminando la loro disputa, si erano separati. Ladislav aveva indugiato mentre Neumann era entrato nella sala delle statue, dove rivide Dorotea. E la colse in quella distrazione meditabonda che rendeva la sua posa straordinaria. Essa in realtà non vedeva il fascio di luce sul pavimento più di quanto non vedesse le statue. Vedeva dentro di sé la luce di anni a venire, nella propria casa, i suoi campi inglesi, e gli olmi e le strade maestre fiancheggiate di siepi. E avvertiva che il modo in cui potevano essere riempiti di devozione gioiosa non le era chiaro come in precedenza. Ma nella mente di Dorotea c'era una corrente in cui ogni pensiero e sentimento erano destinati a confluire prima o poi. Tutta la coscienza si protendeva in avanti, verso la verità più piena, il bene più disinteressato. Vi era chiaramente qualcosa di meglio dell'ira e dello scoramento. Capitolo 21. Fu quel giorno che Dorotea scoppiò in singhiozzi non appena fu certa di essere sola. Ma venne quasi subito scossa da un colpo alla porta, che la portò ad asciugarsi gli occhi in fretta prima di dire «Avanti!». Tantripp le aveva portato un biglietto e disse che nell'ingresso c'era un signore che aspettava. Il domestico le aveva detto che solo Mrs. Casaubon era in casa, ma lui aveva risposto di essere un parente di Mr. Casaubon. «Lei lo voleva ricevere?» «Sì», disse Dorotea senza esitazione, «fallo entrare nel salone». Ciò che l'aveva colpita di più del giovane Ladislav era che, quando l'aveva visto a Lowick, era venuta a conoscenza della generosità di Mr. Casaubon nei suoi confronti e anche che l'aveva interessata la sua esitazione per la scelta di una carriera. Essa era sensibile a tutto ciò che le offriva la possibilità di essere attivamente comprensiva e in quel momento sembrava quasi che a quella visita fosse giunta per scuoterla dalla sua egoistica scontentezza, per ricordare la bontà del marito. E farle sentire che ora aveva il diritto di essere la sua collaboratrice in ogni azione generosa. Attese un paio di minuti, ma quando passò nella stanza attigua, sul suo volto aperto si scorgeva che aveva pianto solo per quel tanto che lo faceva sembrare più giovanile e attraente del consueto. Andò incontro a Ladislav con quello squisito sorriso di benevolenza che è proprio di vanità e gli porse la mano. Egli aveva diversi anni più di lei, ma in quel momento sembrava il più giovane, perché il suo viso chiaro arrossì d'improvviso e parlò con una timidezza estremamente diversa dalla pronta indifferenza di modi usata con l'amico, mentre Dorotea fu resa ancora più calma da uno stupido desiderio di metterlo a suo agio. «Non sapevo che voi e Mr. Casaubon foste a Roma fino a questa mattina, quando vi ho visto nei Musei Vaticani», egli disse. «Vi ho riconosciuta subito, ma voglio dire che ho concluso che avrei trovato l'indirizzo di Mr. Casaubon al fermo posta ed ero desideroso di porgere i miei rispetti a lui e a voi al più presto possibile. Sedetevi, vi prego. Lui adesso non è qui, ma sarà lieto di avere vostre notizie, ne sono certa», disse Dorotea, sedendosi a sua volta distrattamente fra il focolare e la luce dell'alta finestra, e indicandogli una sedia davanti a lei con la calma di una benevola madre di famiglia. I segni della sua tristezza di ragazza sul suo volto facevano solo tanto più colpo. Mister Casaubon è assai impegnato. Ma lascerete il vostro indirizzo, non è vero? E lui mi scriverà. Siete molto buona, disse Ladislav, cominciando a liberarsi della propria diffidenza, interessato com'era ad osservare i segni del pianto che le avevano alterato il volto. Il mio indirizzo è sul biglietto, ma se me lo consentite, passerò di nuovo domani a un'ora in cui Mister Casaubon è probabile che sia in casa. Va a leggere alla Biblioteca Vaticana ogni giorno. E non lo si può incontrare che dietro appuntamento, soprattutto ora. Stiamo per partire da Roma ed è molto occupato. Di solito sta via quasi dall'ora di colazione fino a cena, ma sono certa che vorrà che ceniate con noi. Will Ladislav ha avuto lì per un momento. Mister Casaubon non gli era mai riuscito simpatico e se non fosse stato per il senso di obbligo che sentiva verso di lui, si sarebbe fatto beffe di lui come di un pipistrello dell'erudizione. Ma l'idea che questo pedante inaridito, questo elaboratore di mediocri spiegazioni più o meno importanti quanto le eccedenze di false antichità conservate nello sgabuzzino di un venditore, avesse prima convinto questa adorabile giovane creatura a sposarlo e poi passasse la luna di miele lontano da lei, brancolando alla ricerca delle sue muffite frivolezze, Will era portato all'iperbole. Questo quadro improvviso lo scosse con una specie di comico disgusto. Era incerto se ubbidire all'impulso di scoppiare in una sonora risata o a quello ugualmente inopportuno di prorompere in un'invettiva sprezzante. Per un attimo si rese conto che lo sforzo provocava una strana contorsione sui suoi lineamenti mobili, ma con grande fatica lo risolse in nulla di più offensivo di un allegro sorriso. Dorotea si stupì. Ma il sorriso era irresistibile e risplendette anche dal volto di lei. Il sorriso di Will Ladislav era incantevole, a meno che non si fosse adirati con lui in precedenza. Era un fiotto di luce interiore che illuminava la pelle trasparente e gli occhi e giocava attorno ad ogni curva e linea come se un qualche ariele comunicasse ad esse un novello fascino e bandisse per sempre le tracce del malumore. Il riflesso di quel sorriso non poteva non portare anch'esso in sé un po' di allegria, anche sotto le ciglia scure ancora bagnate di Dorotea, che chiese con curiosità: Qualcosa vi diverte? Sì, disse Will, svelto a trovare delle scappatoie. Sto pensando a che figura ho fatto la prima volta che vi ho visto, quando avete annientato il mio povero schizzo con la vostra critica. La mia critica, disse Dorotea, ancora più stupita. Certamente no, mi sento sempre particolarmente ignorante in tema di pittura. Io pensavo che foste tanto esperta, che sapeste in che modo esprimere ciò che era più sferzante. Diceste, scommetto che non lo ricordate come me, che il rapporto fra il mio schizzo e la natura vi era completamente nascosto. Perlomeno questo era il senso. Will ora poté ridere, oltre che sorridere. In realtà era dovuto alla mia ignoranza, disse Dorotea, ammirando il buon umore di Will. Devo aver detto così solo perché non sono mai riuscita a scorgere alcuna bellezza nei quadri che, secondo mio zio, tutti i critici consideravano assai belli. E mi sono mossa qui per Roma, esattamente con la stessa ignoranza. Sono relativamente poche le pitture che riesco davvero ad apprezzare. In un primo momento, quando entro in una sala i cui muri sono ricoperti di affreschi o di quadri eccezionali, provo una specie di sgomento, come un bambino presente alle grandi cerimonie dove ci sono grandi toghe e sfilate. Mi sento alla presenza di un qualche genere di vita superiore alla mia. Ma quando comincio a esaminare i quadri uno per volta, la vita li abbandona, oppure diventa qualcosa di violento e strano per me. Deve essere la mia ottusità. Vedo tante cose tutte in una volta e non ne capisco neppure la metà. Un fatto che fa sempre sentire stupidi. È penoso sentirsi dire che una cosa qualsiasi è assai bella e non riuscire ad apprezzarne la bellezza. Un po' come essere ciechi mentre gli altri parlano del cielo. C'è molto nella sensibilità per l'arte che deve venire appreso, disse Will. Adesso era impossibile dubitare della franchezza della confessione di Dorotea. L'arte è una vecchia lingua, con una gran quantità di stili ricercati, e a volte il piacere principale che si trae dal conoscerli consiste nella semplice consapevolezza di quella conoscenza. Qui godo immensamente dell'arte di ogni genere, ma sono dell'idea che se potessi analizzare il mio piacere lo troverei composto di molti fili diversi. Serve a qualcosa imbrattarsi un po' ed avere un'idea del processo. Intendete forse fare il pittore? Disse Dorotea, presa da un nuovo interesse. Intendete fare della pittura la vostra professione? Mister Casebo sarà lieto di sapere che avete scelto una professione. Oh, no, disse Will con una certa freddezza. Ho proprio deciso il contrario. È una vita troppo parziale. Qui ho fatto la conoscenza di una quantità di artisti tedeschi. Sono venuto da Francoforte con uno di loro. Alcuni sono dei bravi ragazzi, addirittura brillanti, ma non mi piacerebbe convertirmi al loro modo di guardare il mondo completamente dal punto di vista dello studio. Questo posso capirlo, disse Dorotea in tono cordiale, e a Roma sembra che ci siano tante cose più necessarie dei quadri al mondo. Ma se avete attitudine alla pittura, non sarebbe giusto prenderla a guida. Forse potreste fare cose migliori di costoro o diverse, cosicché non ci sarebbero tanti quadri. Quasi tutti uguali nello stesso posto. Era impossibile interpretare male un tale candore e Will fu convinto da questo a parlare con franchezza. Uno deve essere un genio assai raro per operare cambiamenti di quel genere. Temo che le mie capacità non mi porterebbero neppure al punto di eseguire bene ciò che è già stato fatto, perlomeno non bene al punto che ne valga la pena. E non avrei mai successo in nulla a forza di sgobbare. Se le cose non mi vengono con facilità, non riesco mai bene. Ho sentito Mister Casabo dire che si duole della vostra mancanza di perseveranza, disse Dorotea in tono gentile. Era piuttosto scandalizzata da questo modo di prendere tutta la vita come una vacanza. Sì, conosco l'opinione di Mister Casabo. Noi due dissentiamo. La lieve nota di disprezzo di questa risposta affrettata offese Dorotea. Era ancora più suscettibile riguardo a Mister Casebo a causa delle discussioni del mattino. «Certo che dissentite», lei fece con aria piuttosto orgogliosa. «Non penso di mettervi a confronto. La capacità di dedicarsi con tale devozione a un lavoro quale quella di Mister Casebo non è comune». Will si accorse che si sentiva offesa, ma ciò aggiunse solo ulteriore intensità a ridestarsi della sua latente antipatia per Mister Casabo. Era cosa troppo intollerabile che Dorotea venerasse questo marito. Una simile debolezza in una donna non piace a nessun uomo tranne al marito in questione. Gli uomini sono facilmente tentati di svilire la gloria ronzante del prossimo e pensare che una tale uccisione non sia un assassinio. No, davvero, egli rispose prontamente. E per questo è un peccato che venga buttata al vento. Come lo è tanta erudizione inglese per ignoranza di ciò che viene fatto dal resto del mondo. Se Mister Casabo sapesse leggere il tedesco, si risparmierebbe un sacco di fatica. Non vi capisco, disse Dorotea, allarmata e ansiosa. Voglio semplicemente dire, fece Will senza tante cerimonie, che i tedeschi sono all'avanguardia nella ricerca storica. E se la ridono dei risultati ottenuti brancolando nei boschi con una bussola da taschino, mentre loro hanno costruito delle belle strade. Quando ero con Mister Casebo ho visto che si chiudeva le orecchie in questo senso. Se leggevo un trattato latino scritto da un tedesco, lo faceva quasi controvoglia. Ero molto addolorato. Will pensava solo a dare una bella stoccata che annientasse quella decantata laboriosità e non poteva immaginare in che modo Dorotea sarebbe rimasta ferita. Il giovane Mister Ladislav, a sua volta, non era per nulla bene a conoscenza degli scrittori tedeschi, ma non ci vuole molto per compatire le deficienze di un altro. La povera Dorotea provò un così acuto dolore al pensiero che il lavoro a cui suo marito aveva dedicato la vita potesse essere inutile, che non le restò la forza di chiedersi se questo giovane parente, che gli era tanto obbligato, non avrebbe fatto bene a tenersi la sua osservazione per sé. Essa non aprì neppure bocca, ma rimase seduta a guardarsi le mani, assorta nel cordoglio di quel pensiero.